sognavo e adesso vivo ancora via. Quanta nostalgia affresco di collina, io bianco che pazzia fu andarsene poi. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che il mio destino. Amaro senza te, che canto senza Stringimi I should love someone

qui nella tranquillità i giorni si ripetono però mi manchi tu qui cose ti ricordano anche i silenzi ti raccontano e mi manchi tu dopo di te ricominciare que eso